Matteo capitolo 27. Poi, venuta la mattina, tutti i capi sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro a Gesù per farlo morire, e legatolo lo menarono via e lo consegnarono a Pilato il governatore. Allora Giuda, che l'aveva tradito, vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò i 30 sicli d'argento ai capi sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, tradendo il sangue innocente». Ma essi dissero: «Che ci importa? Pensaci tu». Ed egli, lasciati i sicli nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Ma i capi sacerdoti, presi quei sicli d'argento, dissero: «Non è lecito metterli nel tesoro delle offerte, perché son prezzo di sangue». E tenuto consiglio, comprarono con quel denaro il campo del vasaio da servir da sepoltura ai forestieri. Perciò quel campo, fin al dì d'oggi, è stato chiamato Campo di Sangue. Allora s'adempì quel che fu detto dal profeta Geremia: «E presero i 30 sicli d'argento, prezzo di colui che era stato messo a prezzo dai figliuoli di Israele, e li dettero per il campo del vasaio, come l'aveva ordinato il Signore». Or Gesù comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» E Gesù gli disse: «Sì, lo sono». E accusato dai capi sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non odi tu quante cose testimoniano contro di te?» Ma egli non gli rispose neppure una parola, talché il governatore se ne meravigliava grandemente. Or ogni festa di Pasqua il governatore soleva liberare alla folla un carcerato, qualunque ella volesse. Avevano allora un carcerato famigerato di nome Barabba. Ed essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che vi liberi, Barabba o Gesù detto il Cristo?» Poiché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Or, mentre egli sedeva in tribunale, la moglie gli mandò a dire: «Non aver nulla a che fare con quel giusto, perché oggi ho sofferto molto in sogno a cagion di lui». Ma i capi sacerdoti e gli anziani persuasero le turbe a chiedere Barabba e a far perire Gesù. E il governatore prese a dir loro: «Qual dei due volete che vi liberi?» E quelli dissero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ma pure riprese egli: «Che male ha fatto?» Ma quelli vie più gridavano: «Sia crocifisso». E Pilato, vedendo che non riusciva a nulla, ma che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua e si lavò le mani in presenza della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi». E tutto il popolo rispondendo disse: «Il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figliuoli». Allora egli liberò loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la coorte, e spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciata una corona di spine, gliela misero sul capo, e una canna nella man destra, e inginocchiatisi dinanzi a lui lo beffavano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, presero la canna e gli percotevano il capo. E dopo averlo schernito, lo spogliarono del manto e lo rivestirono delle sue vesti, poi lo menarono via per crocifiggerlo. Or nell'uscire trovarono un cireneo chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. E venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele, ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte, e postisi a sedere gli facevan quivi la guardia, e al di sopra del capo gli posero scritto il motivo della condanna: «Questo è Gesù, il re dei Giudei. Allora furono con lui crocifissi due ladroni, uno a destra e l'altro a sinistra, e coloro che passavano di lì lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo: «Tu che disfai il tempio in tre giorni e lo riedifichi, salva te stesso. Se tu sei il figliuolo di Dio, scendi giù di croce». E similmente i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: «Ha salvato altri e non può salvare se stesso. Da che è il re di Israele, scenda ora giù di croce, e noi crederemo in lui. Se è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, perché ha detto: sono figliuolo di Dio». E nello stesso modo lo vituperavano anche i ladroni crocifissi con lui. Or, dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce: «Eli, Eli, lama sabachthani», cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato?» Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano: «Costui chiama Elia». E subito un di loro corse a prendere una spugna e, inzuppatala d'aceto e postala in cima ad una canna, gli diè da bere. Ma gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se Elia viene a salvarlo». E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Ed ecco la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono, e le tombe s'aprirono, e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ed usciti dai sepolcri dopo la risurrezione di lui, entrarono nella santa città e apparvero a molti. E il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, visto il terremoto e le cose avvenute, temettero grandemente, dicendo: «Veramente costui era il figliuolo di Dio». Ora quivi erano molte donne che guardavano da lontano, le quali avean seguito Gesù dalla Galilea per assisterlo, tra le quali erano Maria Maddalena, Maria madre di Giacomo e di José, e la madre dei figliuoli di Zebedeo. Poi, fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale era divenuto anch'egli discepolo di Gesù. Questi, presentandosi a Pilato, chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che il corpo gli fosse rilasciato. E Giuseppe, preso il corpo, lo involse in un lenzuolo netto e lo pose nella propria tomba nuova che aveva fatta scavare nella roccia, e dopo aver rotolato una gran pietra contro l'apertura del sepolcro se ne andò. Or Maria Maddalena e l'altra Maria erano quivi sedute dirimpetto al sepolcro. E l'indomani, che era il giorno successivo alla preparazione, i capi sacerdoti e i farisei si radunarono presso Pilato, dicendo: «Signore, ci siamo ricordati che quel seduttore, mentre viveva ancora, disse: dopo tre giorni risusciterò. Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino al terzo giorno, che talora i suoi discepoli non vengano a rubarlo e dicano al popolo: è resuscitato dai morti, così l'ultimo inganno sarebbe peggiore del primo». Pilato disse loro: «Avete una guardia, andate e assicuratevi come credete». Ed essi andarono ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.